Parliamo con l'elefante di Giuliano Ferrara. Buongiorno a tutti. In questo montaggio sonoro noi abbiamo riprodotto, idealmente naturalmente, non è la fedele riproduzione del suono che si sentì il 3 gennaio in Piazza del Duomo, perché non c'era il muezzin, perché in Piazza del Duomo non c'è una moschea, ma in questo montaggio sonoro che avete appena sentito noi abbiamo riprodotto il grido di protesta forte, politicamente diciamo molto netto, molto radicale, molto violento contro gli israeliani che fanno la guerra contro Hamas a Gaza, un grido obiettivamente diffuso di solidarietà verso Hamas, verso l'organizzazione di solidarismo islamico, ma anche di terrorismo islamico che è padrona di Gaza. Questo grido politico, di protesta politica violenta contro Israele, contro la guerra di Israele a Gaza e per Hamas, mescolato appunto con la preghiera del Muezzin. Perché? Perché il 3 gennaio di quest'anno, per la prima volta, abbiamo visto tutte le fotografie sui giornali, le immagini alla televisione, sul sagrato, vicino al sagrato di una grande cattedrale cattolica, il Duomo di Milano, ma la cosa si era ripetuta anche a San Petronio a Bologna, altra basilica cattolica, basilica cristiana di grande importanza simbolica. Per la prima volta noi abbiamo assistito alla preghiera come atto di lotta civile e politica in piazza, in pubblico, davanti a questi grandi simboli cattolici dei musulmani, di alcuni musulmani, di alcune associazioni musulmane, di alcune centinaia di musulmani allineati e perfettamente composti, militanti, diciamo, in una grande preghiera che si accoppiava, si integrava con questa forte protesta politica. Ho preparato, questa è una dichiarazione che leggo tra virgolette, ho preparato, ed è una dichiarazione del ministro dell'Interno Maroni, ho preparato una direttiva che verrà inviata a tutti i prefetti affinché fatti come quelli avvenuti davanti al Duomo di Milano non abbiano a ripetersi. È una dichiarazione impegnativa questa del ministro dell'Interno, complicata da giudicare, da accettare, perché la Costituzione italiana, l'articolo 17, dice questo: i cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senza armi. Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso. Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza e di incolumità pubblica. C'è dunque un problema che è quello della libertà politica di opinione e manifestazione del pensiero, ma c'è un altro problema ancora, ne parleremo dopo la borsa, ed è il problema del significato da attribuire a questa vitalità religiosa dell'Islam, che prende posizione dentro la piazza, cioè il grande simbolo della libertà pubblica dell'Occidente, davanti alla facciata di una grande chiesa cattolica. Allora, la preghiera musulmana in piazza è la direttiva che il ministro Maroni manderà a tutti i prefetti perché questi episodi non si ripetano. L'ex presidente del Senato Marcello Pera è autore di una riflessione giudicata controversa, criticata da molti, ma apprezzata dal Papa e apprezzata anche da molti altri, di una riflessione sul rapporto tra le diverse civiltà, le diverse identità religiose e politiche. Senatore Pera, che cosa pensa di questa direttiva del ministro Maroni e del fatto che l'ha originata, cioè la manifestazione di preghiera in Piazza del Duomo e in Piazza San Petronio di centinaia, migliaia di cittadini musulmani? Sì, grazie, intanto buongiorno a lei e agli ascoltatori. Io della direttiva Maroni do un giudizio positivo e mi pare che positivamente sia stata accolta un po' da tutti. No, attenzione, per esempio Rosy Bindi ha detto no, che siamo sul piano inclinato della violazione della libertà religiosa e di una ulteriore ghettizzazione e discriminazione dei musulmani. Ha detto anche sono pretesti per una svolta autoritaria. Sì, arriverò anche a questo, perché insomma, le preoccupazioni dell'onorevole Bindi di evitare di dare spazio al fondamentalismo islamico sono sempre rivolte in maniera unidirezionale, cioè in quella direzione. L'onorevole Bindi si dimentica che ci sono anche i diritti dei cattolici, ma insomma la mia valutazione è positiva, impedisce intanto gesti di provocazione e comunque si voglia interpretarli le due manifestazioni e preghiere a Milano e quella a Bologna insomma sono provocazioni nei confronti della maggioranza cattolica italiana. Lì si è visto chiaramente, soprattutto a Milano, che c'era un cortocircuito, una mescolanza, come lei ha detto, tra una manifestazione strettamente politica, che si può giudicare come uno desidera, ma era una manifestazione politica nei confronti di Israele, interpretata con un significato religioso, cioè questa volta non era più la manifestazione contro Israele. Ecco, senatore Pira, le devo fare una domanda obbligata. Lei pensa, anch'io lo penso, che la religione non sia un fatto esclusivamente privato? È vero che nel Vangelo c'è scritto, Cristo ha detto, prega nella tua stanza, raccogliti dentro di te, redinte ipsum, Sant'Agostino, eccetera. Però la religione non è solo un fatto privato, deve servire a costruire l'identità civile di una cultura. Ecco, naturalmente non deve interferire negli affari pubblici di un paese, della sfera laica, diciamo, della politica, però deve essere presente, no, nel crogiolo pluralistico, e deve essere pubblica, deve avere uno spazio pubblico. È la sua tesi, è la cosa che dice anche il Papa, fa parte del magistero oggi della Chiesa Cattolica ed è oggetto di controversia. Molti dicono no, non è vero, i cattolici devono essere invisibili, devono vivere, diciamo, nella loro interiorità. Ora, come facciamo a contestare ai musulmani il diritto di adire lo spazio pubblico? Qui non dobbiamo contestare il diritto alla manifestazione del pensiero, e questo è un diritto costituzionale, ma dobbiamo combinarli con altri diritti. Insomma, quella disposizione che lei ha citato della Costituzione vale sempre, ma vale con una clausola implicita, cioè in condizioni normali, cioè una manifestazione del pensiero pubblica è tale ed è garantita ed è autorizzata, e anzi non ha bisogno nemmeno di autorizzazione delle autorità politiche, perché si presuppone che in condizioni normali non sia un gesto di conflitto, non sia un gesto di provocazione, non alimenti ulteriori tensioni. Allora, la direttiva Marone, secondo me, ha anche questo vantaggio, cioè impedisce, intende impedire, che ci siano dei focolai di tensione sociale. Ed io ho una preoccupazione. Quindi lei la prende sul piano della tensione sociale e dell'ordine pubblico. Questo è il significato, un senso stretto, della direttiva Marone. Poi ce n'è anche un altro, secondo me, più culturale, cioè ecco, riafferma i diritti della maggioranza degli italiani, che è una maggioranza cattolica, contro l'idea multiculturale che la società italiana è in realtà una società fatta di tante piccole o più o meno piccole comunità religiose, credo che su questo Luigi Manconi, che è stato sottosegretario alla giustizia e presidente di un'associazione per le libertà nell'ambito, diciamo, del Partito Democratico, non potrà che essere in dissenso. Manconi. Io intanto auguro buongiorno a voi e agli ascoltatori. Grazie. Ma quello che esito ad accettare come una verità incondizionata è il fatto che quelle preghiere siano state, come ha detto lei, Ferrara, un atto di lotta civile politica o, come ha detto il presidente Pera, una provocazione. Perché immediatamente interpretare e qualificare così quei due gesti? Piccola obiezione, senatore Manconi. Per esempio i cristiani, per protestare contro il trattamento riservato ai cristiani orientali in tanti paesi arabi, fossero andati davanti alla moschea di Roma a pregare in pubblico e a invocare il loro Signore per fermare la mano di coloro che stanno estinguendo le comunità cristiane in Oriente, nell'Oriente arabo-islamico, lei avrebbe considerato questa parata religiosa e politica legittima? Assolutamente sì. Ma io sono profondamente convinto. È sicuro di questa risposta? Lei non avrebbe scritto un corsivo dicendo non bisogna mescolare la religione e la politica? Gad Lerner l'avrebbe scritto. No, attenzione. Il fatto che non si debba mescolare religione e politica può essere una raccomandazione, un'interpretazione, una presa di posizione individuale, ma non può essere certamente un divieto, non può essere un'interdizione. Quello che voglio dire è che io non ho il minimo dubbio che le religioni debbano avere uno spazio pubblico. E esito a individuare chi, come lei prima diceva, nella società italiana afferma che i cattolici debbano essere invisibili, parole sue testuali se non sbaglio. Sì, sì, ma non sono parole solo mie. Assolutamente che i cattolici debbano essere invisibili, per nulla. Così come ma ci sono alcuni cattolici che dicono noi non dobbiamo giocare le nostre carte nella scena pubblica, non è quello il teatro privilegiato in cui dobbiamo... ci sono molti cattolici che la pensano così. Lei questo mi permetta, non è esattamente la stessa cosa, perché un conto è dire le mie scelte pubbliche, le decisioni politiche derivano direttamente dall'ispirazione di fede, un conto è dire che la fede sia esclusivamente un atto privato. È il regno delle distinzioni. Comunque, insomma, lei dice che questa direttiva, come noto, è il regno questa direttiva è legittima, è giusta o no? Come? Questa direttiva Maroni è giusta o no? No, la ritengo sbagliata perché il motivo è semplice, perché pone immediatamente quelle manifestazioni di fede sotto la categoria di minacce all'ordine pubblico. Bene. Cosa che può accadere, ma quando accada, esse vanno represse come tali, non preventivamente. Va bene, grazie. Un attimo, abbiamo in linea anche, credo, Gian Maria Vian, il direttore dell'Osservatore Romano, di questa antica, prestigiosa testata che si pubblica nella Città del Vaticano e che è, diciamo, un po' considerato il giornale del Papa. Gian Maria Vian è buongiorno, è un professore diciamo di una disciplina che riguarda molto da vicino la cosa di cui stiamo discutendo, l'identità cristiana, la tradizione e l'identità cristiana. Un momento solo, Vian, sentiamo insieme Luigi da Roma. Luigi. Buongiorno a tutti. Niente, io sono stato a lavorare nell'Arabia Saudita, a Riyadh. Prima di entrare ho dovuto portare il certificato di battesimo, questo è uno. Poi, nella seconda ipotesi, la nostra società, quando stavamo a Riyadh, per far venire il prete, un prete italiano, doveva venire in incognita e fare la messa dentro al nostro cinema. Poi non solo quello, noi nemmeno vicino potevamo passare a piedi sulle moschee. Tanto è vero che io quando ho preso l'aereo da Jeddah Riyadh, stiamo parlando sempre della stessa cosa, perché calcoli che qui è Roma, c'è il Vaticano, sì, la Mecca, a noi ci hanno oscurato l'aereo perché non potevamo guardare neanche di fuori. E poi ci hanno fatto fare una dieta, adeguarsi alle leggi locali. Qui noi siamo una nazione delle banane, qui tutto è permesso, è una cosa assurda, È il tema della reciprocità raccontato con molta vivacità. C'è poi, per vedere un altro lato della faccenda, Simone da Lodi. Simone, prego. Lei e i suoi ospiti. Ma a mia considerazione aveva un cappello introduttivo per titoli, per cui educazione... No, un cappello introduttivo per titoli diventa lunga. Ci dica il senso... No, breve, sono brevissimo. Educazione, no, ci dica il senso della sua opinione. E leggi. Da una parte abbiamo Maroni con una direttiva che mi auguro non venga introdotta, dall'altra parte abbiamo il suo collega Calderoli, stesso partito, che diciamo in controtendenza al buonsenso si permette di andare su un campo agricolo adibito alla costruzione della moschea e sparge sangue di maiale. Quindi volevo capire la coerenza di tutto questo breve ragionamento che sottopongo alla sua attenzione. Bene, lei dice certo se si fanno manifestazioni provocatorie di tipo anti-islamico, poi dopo anche una direttiva come la direttiva Maroni rischia di essere equivocata e questo è comprensibile, però Luigi prima diceva non c'è nessuna reciprocità, noi siamo tolleranti, aperti, civili, la libertà religiosa per noi è decisiva, ma in quei paesi questa libertà non esiste. Professor Vian, il tema della reciprocità è complesso, una volta il Papa ha detto, accennato al fatto che la reciprocità è importante, proprio in rapporto con un ambasciatore di un paese arabo-islamico. Tuttavia altri dicono: che vuol dire la reciprocità? Noi crediamo nella libertà, sì. Crediamo nella libertà religiosa, sì. Il Concilio l'ha, diciamo, santificata addirittura nella vita stessa della Chiesa, nella dottrina cristiana e cattolica, sì. E allora noi non possiamo comunque rinunciare a questa cosa in cui crediamo, reciprocità o non reciprocità. Lei cosa pensa, professor Vian? Sì, certamente la reciprocità è auspicabile, ma proprio per il fatto stesso noi la consideriamo consideriamo la libertà religiosa irrinunciabile, non possiamo, diciamo, metterla così sul piatto della bilancia. Cioè lei vuole dire: noi vogliamo la reciprocità, vogliamo che anche gli altri possiamo auspicare, la auspichiamo, ma non, certo, non subordiniamo il nostro comportamento all'esistenza della reciprocità. Esattamente, esattamente. Senta, professore, posso farle una domanda un po' fuori del, diciamo, delle consuetudini, un po' diretta, un po' spontanea? Quando lei la mattina si è alzato e ha visto sui giornali le fotografie, insomma, di questi fedeli musulmani tutti belli allineati verso la Mecca, che pregavano nella loro modalità spirituale di culto davanti al Duomo di Milano, e contemporaneamente nello stesso giorno lo stesso tipo di manifestazione davanti a San Petronio, e ha pensato: questa preghiera è parte di una manifestazione politica, la manifestazione politica di solidarietà con Hamas, che cosa ha pensato? Beh, sono rimasto, come credo la stragrande maggioranza degli italiani, ma credo anche al di là dell'Italia, piuttosto impressionato. Ma credo che questa impressione sia stata condivisa anche da molti musulmani, tant'è vero che sarà stata anche dettata da opportunità, da questioni di opportunità, ma c'è stato un esponente musulmano che poi è andato con dei suoi correligionari a scusarsi presso le autorità ecclesiastiche milanesi. Cioè, effettivamente è un fatto piuttosto impressionante, perché era evidente l'uso politico, anche magari non orchestrato, della religione. Una manifestazione che era radicalmente, cioè alla radice politica, a un certo punto ha avuto questa accentuazione religiosa, e quindi è apparso abbastanza evidente questo uso politico, uso violento, perché ci sono state delle manifestazioni anti-italiane. Sì, anche ideologicamente e culturalmente violente. Ma lei, come membro autorevole della nomenclatura cattolica di questo paese, ricordo il numero verde 800240024 per gli ascoltatori, come membro autorevole della nomenclatura cattolica di questo paese, lei si sente garantito, protetto da questa idea di una direttiva che decomprima, allontani dai sagrati delle cattedrali italiane le manifestazioni politiche in cui c'è anche un elemento, diciamo, di pressione religiosa che viene dal legame tra religione e politica nell'Islam moderno? Ma sa, io non vorrei che fosse come un po' come le grida manzoniane, sa, tutto dipende un po' dal buon senso, da come verrà applicato, intanto dai contenuti precisi di questa direttiva, poi se non sbaglio sarà lasciata l'applicazione ai prefetti. Poi bisogna stare attenti come viene formulata e applicata, perché per sua natura una disposizione di questo genere non può che essere, proprio per la libertà religiosa, erga omnes, cioè verso tutti, insomma, e quindi bisogna stare molto attenti, perché qui si tocca il punto, quello che lei vedeva con molta chiarezza prima, della presenza dello spazio pubblico delle religioni, che è un altro fatto acquisito. Ecco, ma su questo, certo. Oggi sul giornale Don Gianni Bagetbozzo dice: il mondo laicista assiste con contentezza all'infrangersi dell'identità cattolica del paese grazie alla presenza di una religione diversa. Cioè lui dice: coloro che non amano un paese definito come paese cristiano cattolico e che in nome del laicismo godono a vedere il pluralismo religioso sono contenti di questa forte presenza e pressione musulmana. Ma dimenticano, dice Bagetbozzo, che essa è anche una civiltà diversa, sul nostro popolo ricade l'invenzione della convivenza, perché siamo composti di individui, la società cristiana, diciamo così, è personalista. E mentre i musulmani non sono così, la loro società è una umma, è una comunità di credenti. Questo conflitto, che per esempio Cacciari riconosce, dice effettivamente è un grande dissidio tra religioni diverse, c'è o non c'è secondo lei? Guardi, io credo che obiettivamente l'islamismo abbia delle caratteristiche storiche e fenomenologiche oggi diverse da, diciamo, dagli esiti della tradizione cristiana in Occidente, però non è neanche vero che la tradizione cristiana sia estranea a queste dimensioni pubbliche della religione. Insomma, nel 65 uno dei più geniali intellettuali cattolici del Novecento, che poi 4 anni dopo sarebbe stato creato cardinale da Paolo VI, cioè Jean Danielou, un storico e teologo, scrisse un piccolo libro che purtroppo non credo sia sul mercato, L'oraison problème politique, la preghiera come problema politico, che fu tradotto in Italia. E la sua tesi qual era? Dobbiamo interrompere un momento, mi dica. Era appunto che il cristianesimo personale, adesso riassumo al massimo, è impossibile senza un cristianesimo sociale, ma questo discorso lui lo applicava al cristianesimo, ma lo vedeva... Quindi la preghiera non è solo un rapporto tra me e il divino, tra me e Dio che mi ama, tra me e il Signore, tra me e Cristo, no, la preghiera è essenzialmente anche... questo, sì. Ma deve essere, può essere assicurata, perlomeno nella tradizione cristiana, anche da un fatto di comunitario, di popolo. Benissimo. Insomma, è una difesa in qualche modo del costantinianesimo, no? Chiarissimo, la ringrazio. Eccoci qui di nuovo con i nostri barriti. Abbiamo Don Nicola, parroco di San Giuliano della provincia di Milano. Don Nicola ci ha chiamato. Prego, Don Nicola. Buongiorno. Buongiorno. Io sono appunto in diocesi a Milano, volevo semplicemente ricordare, diciamo così, la posizione misurata dell'arcivescovo di Milano, il cardinale Tettamanzi, che pure ha dichiarato che ha ricevuto le scuse dei rappresentanti islamici. Tuttavia il cardinale ha detto comunque l'espressione di preghiera ha sempre diritto d'asilo. E qui che volevo dire una certa precisazione. La manifestazione era una manifestazione politica contro Hamas, ma la preghiera non era una preghiera pro Hamas o contro Israele. È successo che si sono ritrovati nella piazza del Duomo, perché è la piazza dove si sono radunati, all'orario della preghiera. Allora bisogna tenere distinte le cose. Si potrà essere di interpretazione malevola e dire che hanno fatto apposta ad arrivare in quel momento lì, oppure di essere più benevoli e dire sono stati incauti. La questione è se la manifestazione non era autorizzata. Don Nicola, politica, scusi, ma in San Petronio è stato anche lì un equivoco? Una sì, coincidenza temporale? Diciamo così, che... appunto, l'interpretazione malevola può dire, viste le coincidenze dei due fatti, forse hanno fatto coincidere le due cose, però anche facendole coincidere non è che hanno bruciato le bandiere durante la preghiera, hanno solo sovrapposto Ma scusi, Don Nicola, io capisco la sua tolleranza, perché secondo me un curato, un parroco, una persona che vive e lavora in una diocesi cattolica come Milano, piena di contraddizioni, deve essere molto prudente e molto cauto. Ma lei lo sa, perché lei è intelligente, lei si è formato, si è selezionato dentro i seminari di Santa Madre Chiesa. Lei lo sa che c'è un problema, no? Un problema. Sì, sì, l'Islam sì. È diverso dal cristianesimo, l'Islam c'è anche è il califato. Un problema di maturazione, certo, che noi abbiamo avuto secoli alle spalle, e loro ce li hanno adesso davanti. Ecco, certo, ma io sono d'accordo, esatto. I tempi lunghi della Chiesa Cattolica sono la sua grande sapienza, la sua grande saggezza, è sopravvissuta e tiene cartellone da 2000 anni anche per questo. Certo. Io quindi rispetto molto la sua opinione, anche quella del cardinale Tettamanzi. Però attenzione, l'Islam europeo c'è. È successo un fatto nuovo in Italia, nelle piazze dove ci sono le nostre cattedrali, e bisogna cercare, io non dico condanniamo, mandiamo i carabinieri, c'è questa direttiva prudente. Che il dialogo sia la questione migliore. Posso dire, ad esempio, tutti ricordano la moschea di Viale Jenner con tutto quello che ha avuto, però pochi ricordano che esistono altre moschee a Milano, quella di Viale Padova è molto moderata. Il centro islamico che stanno costruendo a Cascina Gobba è sicuramente un centro di forte dialogo, di soltanto cultura e non politica. Don Nicola, le cito dal giornale dei Vescovi, quindi non da un giornale, diciamo, non da un giornale sospetto. Don Nicola, mi ascolta, mi sente? Sì, sì, la sento. L'editoriale di Pierangelo Sequeri, che è un vostro teologo della Facoltà Teologica dell'Italia. Certo. Ecco. E lui ha detto sostanzialmente: la preghiera è un buon modo per prendere distanza dalle nostre passioni meno nobili o anche francamente peccaminose, no? Preghiamo, prendiamo distanza dalle passioni, non per circondarle di aureola, non è che con la preghiera noi amplifichiamo la potenza delle nostre passioni. Dice, perché questo succede, bisogna che i credenti, e questo è riferito evidentemente anche ai credenti musulmani, accettino di rendere visibile più concretamente la capacità della preghiera di smantellare le radici dell'odio, sottraendole ad ogni sua equivoca parentela con la violenza. E poi dice Sequeri, il cristianesimo questa cosa l'ha introiettata, cioè la preghiera cristiana non è una preghiera di violenza politica, lo è stata nel passato, le crociate, ma anche le crociate politiche dei grandi predicatori anticomunisti del papato di Pio XII, ma non è certo più così. Ecco. Potremmo oggi però, dice, una più appassionata e normale visibilità dell'autentico spirito cristiano, proprio nella forma corale, nel segno autentico della preghiera, restituirebbe saldezza e cuore alla speranza degli abitanti delle nostre città senza anima. Auspicio, io direi, come noi abbiamo avuto il nostro cammino tormentato, fatto di secoli, loro sono in ritardo di qualche secolo rispetto a noi e stanno vivendo forse adesso la fase di modernizzazione. Posso citare un'ultima cosa? Certo. Roger Bozzo diceva che c'è una profonda diversità, cioè loro sono una comunità credente. Guardi, noi all'oratorio estivo, questo momento in cui aggreghiamo tanti ragazzi, ci mandano lì anche i figli dei ragazzi delle famiglie islamiche. Io ho provato a chiedere ai nostri ragazzi adolescenti marocchini, piuttosto che di altre parti, che hanno la famiglia proprio islamica. Loro sono come i nostri figli, come i nostri ragazzi, cioè ammettono che sono piuttosto disinteressati al problema religioso. C'è una questione, ad esempio, di nuove generazioni che sta già facendo i conti che stiamo facendo noi con i nostri figli. Cioè addirittura lei dice che anche loro si secolarizzano. Sì, guardi, lei dice che anche loro si secolarizzano. I nostri figli fraternizzano molto. Sì. E purtroppo, ad esempio, su questa cosa qui ogni tanto trovano terreno comune. Cioè Va bene, grazie Don Nicola. Senatore Pera, come mai molti laici, come lei per esempio, sono preoccupati quando vedono che i cristiani stentano ad affermare la loro visibilità spirituale e invece l'Islam politico tende ad affermarla con una certa brutalità, e invece l'arcivescovo di Milano, Don Nicola, eccetera, in modo assolutamente rispettabile, esprime un'opinione molto più cauta, molto più attendista, e hanno, direi, invece paura di un eccesso di reazione? Sì, io credo questo, che noi limitiamoci all'Italia, e comunque il discorso vale per tutta l'Europa e anche per tutto l'Occidente. Noi siamo intrisi per storia e tradizione di cristianesimo, in Italia di cattolicesimo in particolare. Questo cristianesimo e questo cattolicesimo ci ha dato una cultura e anche una civiltà. E questa cultura e questa civiltà rappresentano la nostra identità. Si manifesta lì, nelle nostre leggi, nelle nostre costituzioni, nei nostri costumi. Quello che è in gioco oggi è proprio l'idea che noi dobbiamo avere una identità da affermare o da difendere, perché l'opinione è che ciascuno debba avere una propria identità, ciascuna comunità, uso il termine che lei ricordava, e ogni identità di ogni comunità vale qualunque altra. Ecco, il Papa le ha scritto una lettera per contestare questo principio. Per... Io non credo questo. Sì. Cioè, io non ho delle idee dei sapori un po' più forti. Mi spiace, capisco le ragioni della prudenza di Don Nicola, della pazienza. Intanto ho una preoccupazione che vorrei segnalare a tutti quanti, che dopo tante discriminazioni ricevute, irrisioni subite, buone lezioni di laicità impartite, i cattolici italiani, che notoriamente sono prudenti e pazienti, lo abbiamo sentito Don Nicola, un giorno perderanno anch'essi la pazienza e quel giorno e si potrebbero radicalizzare. Bene, aspetti allora. un attimo, senatore Pera. Manconi, vorrei il suo parere su questo, ma sottolineando una cosa. Gad Lerner, che più o meno la pensa come lei, siete due gemelli intellettualmente, direi, nella scena pubblica italiana per certi aspetti, si è molto allarmato per la preghiera islamica in Piazza Duomo. Si è allarmato e ha detto che è un salto di qualità, forse anche perché l'ha sentita molto connessa con manifestazioni di spietata inimicizia verso Israele, ma insomma si è molto allarmato. Lei mi sembra più irenista, più pacificatore, più conciliativo. Sono due posizioni laiche, perché tutte e due siete laici, tutte e due volete una forte distinzione dello spazio della laicità, dallo spazio, diciamo, della religione, della fede, però si è aperta una contraddizione, mi pare, nel vostro campo, o no? Rinuncio a dire irenista sarà lei, caro Ferrara, faccia come vuole, e anche a dire che io non mi definisco laico nell'accezione corrente, però queste sono cose secondarie. Io penso che, riprendendo l'editoriale del Giornale dei Vescovi, è vero, il problema è smantellare le radici dell'odio che può essere presente in quella preghiera. Si tratta di vedere quali sono le strategie più intelligenti, efficaci e razionali per smantellare quel possibile esito aggressivo di quella che io ho interpretato come una affermazione di identità. La mia domanda in sostanza è questa, a lei e al presidente Pera: ma perché quell'atto è di per sé una provocazione? È allora, una aspetti un attimo, dichiarazione sì. di fede, è una affermazione sì. di sé all'interno di una società che tenta di negare esattamente quella possibilità di affermare la libertà religiosa per quella confessione particolare che è l'Islam. Cioè, no, scusi, lei adesso sta dicendo che nella nostra società si tenta di discriminare, di negare la libertà religiosa degli islamici? No, spero di no, perché questo non è vero. Che non si riconosce adeguatamente questa possibilità. Ma come non si riconosce? Sono liberissimi di fare quello che vogliono. Al punto, c'è un'enorme moschea a Roma, come non? No, al punto che, come lei sa, nel dibattito pubblico e nel dibattito parlamentare la questione dei vincoli, limiti e restrizioni da porre all'esercizio della libertà religiosa per i musulmani è moneta corrente. Vabbè. Comunque, senatore Manconi, resta il fatto che queste musulmani presenti nel nostro paese ritengono di dover affermare una propria identità. Certo, affermare una propria identità non è necessariamente volontà di sopraffazione. Mi fa piacere sentire da lei queste parole, perché per me valgono sia per i musulmani sia per i cattolici. Sono sono totalmente d'accordo con lei. Aspetti un attimo, sentiamo però chi ha la presa in un modo diverso da noi. Margherita da Milano, dopo Don Nicola sentiamo Margherita da Milano. Margherita. Buona giornata a tutti voi. Mi sento piuttosto male, però cerco di esprimere chiaramente il mio pensiero. Personalmente, per quanto riguarda l'episodio di Milano e di Piazza del Duomo, io mi sono sentita molto offesa come cattolica, come italiana, come cittadina di Milano, perché era un'offesa l'intenzione era quella, è inutile che noi giriamo attorno all'argomento, l'intenzione era quella. Allora, se è vero che i musulmani possono voler... Beh, come fa a essere sicura, Margherita, come sì, fa a essere sicura che fosse un'offesa? Per esempio, Manconi sostiene, non possiamo dire implicitamente e lasciar passare l'idea che fosse una provocazione. Mi piace, però sono completamente in disaccordo con Manconi, ma completamente. Con tutto questo rivendico anche il mio atteggiamento di persona rispettosissima di tutte le persone e di tutte le credenze. Ma Piazza del Duomo è un simbolo, il Duomo è un simbolo della cristianità. Dobbiamo ringraziare che la Mecca non si sia trovata di fronte al Duomo e che quindi la loro preghiera si sia svolta volgendo le terga alla facciata del Duomo. Smettiamola, loro vogliono rivendicare la loro identità, ok, noi da parte nostra dobbiamo recuperare la nostra identità perché l'abbiamo persa per strada, proprio con argomentazioni di questo genere, tutto continuando a rispettare. Margherita, grazie, è stata molto sincera, chiara e anche appassionata. Una domanda cordiale, affettuosa persino, ma difficile al professor Vian, direttore dell'Osservatore Romano. Rovesciamo tutta la faccenda, non parliamo più dei musulmani che pregano in Piazza del Duomo, parliamo dell'identità cristiana, materia di cui lei è professore. Professor Vian, lei è figlio della Chiesa del Concilio, anche per ragioni anagrafiche, penso anche per ragioni importanti, lei è stato battezzato, si scrive nelle sue biografie, da Giovan Battista Montini, cioè da Paolo VI, il Papa che poi portò a termine il concilio, lo realizzò effettivamente e visse le prime fasi tumultuose, drammatiche, tormentate del dopo concilio. C'è stata una chiesa che organizzava sotto Pio XII contro il comunismo, per combattere il comunismo ateo e materialista, per solidarizzare con la Chiesa del Silenzio, per impedire che in Italia arrivasse quella che era temuta come l'apertura a sinistra, quindi uno spiraglio per l'arrivo di un regime negatore dei principi del cristianesimo, questa era la motivazione. C'è stata una chiesa che pregava in piazza, c'è stata una chiesa che predicava in piazza, che aveva i suoi padre Lombardi, che aveva i suoi Luigi Gedda, che riuniva i suoi comitati civici, e noi vedevamo, era una cosa anche d'immagine, si vedevano le suore, si vedevano i preti, si vedeva una parte del clero e c'erano i cardinali combattenti, i vescovi. Questa chiesa qui, che si comportava sintetizzava fortemente la politica e il credo confessionale, è definitivamente tramontata, è finita, fa parte dei mea culpa, delle scuse, il rigetto di questa esperienza? No, non direi, non ci sono mai stati mea culpa per questo, anzi lei sa bene Ferrara, perché è un illustre erede della tradizione comunista, che ancora il Partito Comunista Italiano, ancora quando era Partito Comunista Italiano, riconobbe in qualche modo la... mi viene da dire la provvidenzialità non solo della vittoria del 18 aprile della Democrazia Cristiana, ma di fatto anche dello schieramento della Chiesa di Pio XII. Ma se mi consente una battuta, i Baschi Verdi non hanno mai bruciato una bandiera dell'Unione Sovietica. Certo, in piazza, insomma. Quindi è proprio questo il problema. Il problema è l'uso politico, e più ancora, perché l'uso politico qui si può discutere, io so bene che appunto il problema è Costantino in qualche modo, ma l'uso violento della per il nostro pubblico, Costantino è l'imperatore romano che si convertì al cristianesimo, emanò un celebre editto e trasformò in un certo senso la religione cristiana in una religione di Stato, la religione dell'impero. Beh, presiedette anche un concilio. No, questo non è esatto, perché no, ma insomma presiedette un concilio. Fu 50 anni dopo Teodosio, 60-70 anni dopo Teodosio a fare... Formalmente, però Costantino presiedette un concilio, insomma. È sempre rimasto pontefice massimo, ma lo presiedette, no? Lui non era ancora battezzato, lo presiedette perché l'imperatore era il capo in qualche modo di tutte le regioni. Adesso qui non è il caso di entrare in questa materia, ma insomma il problema è veramente l'uso violento della religione. Questo va respinto. Va respinto. Io sono un po' esitante sull'efficacia di direttive, e deve entrare nella coscienza, è un problema anche di modernità, di modernizzazione, appunto la tradizione cristiana ci ha messo parecchio tempo per laicizzarsi, la laicizzazione e la secolarizzazione sono frutto proprio anche della tradizione cristiana, un frutto positivo, ma insomma voglio dire, ci sono stati dei cambiamenti anche in tradizioni diverse. Io mi ricordo che è piuttosto recente la visibilità di una festa, di una tradizione religiosa antichissima dalla quale il cristianesimo non potrà mai staccarsi, cioè l'ebraismo, il cambiamento di una festa come la festa delle luci, diciamo il Natale ebraico, Hanukkah sì. Fino a pochi anni fa era una festa che insomma faceva notizia, faceva solo colore, si ricordava nei giornali, arrivava qualche collaboratore e diceva ah, è Hanukkah, faccio un pezzetto. A un certo punto a Roma, davanti al Tempio Maggiore, è comparso un grande candelabro, come poi è comparso a Piazza Barberini. Quindi c'è anche sì, insomma, lei dice c'è una dialettica tra spazio pubblico e dimensione privata della religione che riguarda poi tutti, no? Certamente. Vabbè. Ma io credo che anche diciamo queste, il problema dell'Islam europeo, era interessante quello che diceva l'ecclesiastico milanese che è intervenuto prima. Sì, Don Nicola. Don Nicola, che dice i ragazzi sono poco interessati alla religione. Io credo che l'Islam, Danielu se ne accorse già nel 65 in questo libretto, sono terrorizzati, e Ratzinger e poi Benedetto XVI lo vanno ripetendo da tempo, ma lo diceva già Giovanni Paolo II. Sono terrorizzati da che cosa? Come? Sono terrorizzati da che cosa? Da questa irreligiosità, dal secolarismo. Da questo divorzio tra tra la fede e la vita pubblica, tra religione e civiltà. Certo, perché loro nascono come una religione integralmente politica. Bene, ringrazio il senatore Pera, ringrazio Luigi Manconi e il professor Vian, ringrazio tutti voi che avete telefonato in molti e naturalmente ringrazio in redazione Franca Fossati, Gloria Guerrera, Guido Scotti, in regia Alessandro Chiappini e passiamo la parola a Gianluca Nicoletti. Ci vediamo lunedì alla stessa ora alle 9. Grazie.